Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Una buona giornata a tutti da Valentina Furlanetto. Oggi Salva Danaio si occupa degli incentivi decisi dal governo per stimolare gli acquisti degli italiani in questo periodo di ristrettezza economica. A partire da domani, infatti, scattano gli sconti su moto, internet a banda larga, elettrodomestici e altri settori che andranno avanti fino all'esaurimento del fondo da 300 milioni varato con il decreto del governo e comunque non oltre il 31 di dicembre. Noi oggi restringiamo un po' il campo, parliamo in particolare degli elettrodomestici e delle cucine, mentre dedicheremo altre puntate di Salva Danaio agli altri settori. Da domani sarà possibile quindi andare in un negozio, comprare una lavastoviglie, un forno, un piano cottura, usufruendo di alcuni sconti. Bisogna però stare attenti e affrettarsi. I fondi a disposizione, dicevamo, sono limitati. Prima di procedere all'acquisto bisogna poi informarsi se sono ancora disponibili. Come fare quindi per ottenerli? Quali sono le procedure da seguire, quali gli elettrodomestici per i quali si può usufruire dell'incentivo? Cercheremo di rispondere a queste e ad altre domande che vorrete farci al numero 800 24 00 24 per chiamarci o via sms al 349 238 6666. Con l'aiuto degli esperti che saranno in collegamento tra poco e che tra poco presenterò, non prima però della consueta pagina finanziaria. E allora parliamo di borsa. Questa mattina l'andamento delle borse è positivo in Europa, fa seguito anche a una chiusura con il segno più a Wall Street. Ieri il Dow Jones è salito dello 0,11% a 11.000 punti. Anche questa mattina le borse asiatiche sono andate piuttosto bene e ora i mercati in Europa continuano questo andamento positivo. A Francoforte l'indice sale dello 0,4%, Parigi più 0,46%, Londra più 0,49%. Sullo stesso andamento anche Piazza Affari, dove il FTSE All Share guadagna lo 0,56%, più 0,61% per il FTSE MIB. Sul mercato milanese, sul paniere principale dei titoli, abbiamo il rialzo di ST Microelectronics, più 3,32%, che corre con tutto il settore tecnologico europeo sulla scia dei conti di Intel che sono stati diffusi stanotte e che sono stati superiori alle attese degli analisti. Continuano a salire le telecom, più 0,6% dopo la buona performance della vigilia innescata dalla presentazione dell'aggiornamento del piano industriale della società. Sono ben impostate le azioni delle banche, tranne quelle di Monte dei Paschi di Siena, che dopo un avvio positivo risentono della pressione dei realizzi, ma la banca, l'azione della banca aveva messo a segno ieri un balzo di oltre il 5%. Intesa più 2,3%, Popolare più 1,6%, Popolare di Milano più 0,7%, Unicredito più 0,6% e UbiBanca più 0,6%. Invece Monte dei Paschi, per essere precisi, in questo momento cede lo 0,26%. Bene Fiat più 1,31%, Pirelli più 1,7%, anche Eni è positiva più 0,8%, mentre Enel guadagna lo 0,36%. Fra i titoli negativi Parmalat, che cede lo 0,82%, in questo momento è la peggiore del paniere principale, poi Tenaris meno 0,63% e Bulgari meno 0,62%. Per chiudere questa lunga pagina finanziaria diamo uno sguardo ai cambi. L'euro è quotato rispetto al biglietto verde 1,3621 in questo istante. E dopo queste notizie di borsa, di cambi, torniamo al tema della puntata, ossia gli incentivi per gli elettrodomestici. Innanzitutto cerchiamo di capire qualcosa di più su questo grazie alla scheda che hanno realizzato Gaia Romani e Alessandro Longoni. È tutto pronto. Da domani sarà possibile recarsi in negozio e comprare un elettrodomestico usufruendo degli sconti varati dal governo attraverso il decreto incentivi e che potranno essere utilizzati entro la fine di quest'anno. Ma attenzione, bisogna affrettarsi. I fondi a disposizione sono molto limitati e prima di procedere all'acquisto bisognerà informarsi se sono ancora disponibili. In particolare, dei 300 milioni offerti dal governo, la fetta riservata all'acquisto di elettrodomestici è pari a 50 milioni. Altri 60 sono invece riservati alle cucine componibili. Per chi vorrà sostituire solo un singolo elettrodomestico, è previsto uno sconto del 20% con tetti massimi differenziati per i diversi apparecchi. Sono agevolabili lavastoviglie, cappe, forni elettrici, piani cottura cucine da libera installazione, scaldacqua, pompe di calore e stufe. Gli elettrodomestici dovranno essere ad alta efficienza energetica, classe A e B, e dotati delle più aggiornate misure di sicurezza. È previsto invece uno sconto del 10% fino ad un massimo di 1.000 euro di incentivo per la sostituzione dei mobili della cucina con cucine componibili complete di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Grazie dunque a Gaia Romani per questa scheda, per dare un aggiornamento anche di cronaca. E vi volevo riportare un'agenzia di stampa che è stata battuta poco fa dal Salone del Mobile di Milano, dove era presente il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia questa mattina, che ha chiesto di rivedere la politica degli incentivi al consumo inserendo anche il settore mobile arredamento. Come avete sentito, fra gli incentivi è presente la cucina attrezzata, ma resta fuori tutta una serie di mobili, mobili come ad esempio i soggiorni o quant'altro, e quindi Confindustria chiede che ci sia un ripensamento da parte del governo, un'attenzione maggiore anche nei confronti di questo settore. Noi abbiamo in collegamento Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, al quale do un buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi, ci aiuterà a dipanare un po' questa matassa degli incentivi, in particolare lo diciamo ancora sugli elettrodomestici e per quanto riguarda le cucine. Se volete farci delle domande, 800 24 00 24 oppure via sms al 349 238 6666. Luca De Stefani, ha sentito la scheda, quindi sono esclusi alcuni elettrodomestici in particolare. Quali, per quali possiamo chiedere lo sconto da domani e per quali invece no? Allora, per quanto riguarda gli elettrodomestici singoli, abbiamo sicuramente le lavastoviglie, i forni elettrici, piani cottura, le cappe, i scaldacqua elettrici, questi sono quindi quelli singoli. Poi se compriamo invece una cucina componibile, questa deve avere almeno due elettrodomestici scelti tra frigoriferi congelatori, forno, piano cottura e lavastoviglie. Quindi diciamo che singolarmente il frigorifero non è agevolato, ma se è all'interno di una cucina componibile è sicuramente agevolato. Un'altra esclusione mi sembra sia quella della lavatrice. Certo, anche la lavatrice non è agevolata, non può avere questo contributo. Gli ascoltatori già ci chiedono al 349-238-6666 se le caldaie sono incluse, in particolare due ascoltatori, Giovanni e Vanni, non so se sia la stessa persona a questo punto, chiedono se la caldaia da riscaldamento autonomo è inclusa. Sì, diciamo che è possibile sostituire lo scaldacqua elettrico con l'installazione di uno scaldacqua a pompa di calore ad alta efficienza. Che cos'è questo? Nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono state date alcune definizioni. Allora, per quanto riguarda questi scaldacqua, è necessario che questo consenta, attraverso un'alimentazione elettrica, di riscaldare l'acqua sanitaria sfruttando il calore estratto dall'aria. Questa è la definizione data dal Ministero dello Sviluppo Economico. Infatti diciamo subito che si può andare sul sito internet del Ministero per avere qualche ragguaglio in più. Esiste anche un numero verde di assistenza, un call center informativo di assistenza, cioè l'800-123-450 da rete fissa e il numero 199-123-450 da rete mobile. Questo per quanto riguarda i clienti, mentre per i venditori a disposizione il numero verde 800-55-6670, perché le domande immagino siano molte anche dal punto di vista di chi vende. De Stefani. Sì, certamente. Abbiamo nel sito internet del Ministero, appunto, vi sono varie sezioni, tra le quali abbiamo appunto le domande frequenti dei consumatori e dei venditori. Ricordiamo che comunque questi incentivi sono anche validi per le imprese. Per le imprese abbiamo sia le cucine, gli elettrodomestici, pensiamo ad esempio ad un ristorante oppure ad un albergo, ma vi sono anche tutta una serie di altri beni che sono magari un po' più importanti come importo. Allora sono i rimorchi, i motori fuori bordo ad esempio, le gru per l'edilizia, i semirimorchi, gli inverter e i motori efficienti. Tutti questi sono agevolati, abbiamo quindi degli sconti che sono, vanno dal 10 al 20% in questi casi, con dei limiti massimi. Ecco, per ogni categoria ovviamente c'è uno sconto che viene fatto direttamente dal venditore come sconto sul prezzo. Certo, è direttamente il venditore che diminuisce l'importo, il prezzo di vendita, e comunque prima deve aver già dedotto il suo sconto che fa volontariamente. In più, oltre quindi a questo sconto volontario, abbiamo questo contributo che riceve il venditore e pertanto di conseguenza diminuisce il prezzo di vendita. Il contributo sarà erogato nei mesi prossimi, nei mesi successivi alla richiesta da parte del venditore, da parte delle Poste Italiane, che è l'ente che è stato scelto in questa fase, per questa fase operativa dell'incentivo. Come giustamente diceva, sono le Poste che fanno da tramite questa volta. Anche sul sito delle Poste si possono avere dei ragguagli. Bentornati a Salvadanaio, oggi parliamo degli incentivi che riguardano gli elettrodomestici e le cucine componibili. In particolare cerchiamo di capire chi ne ha diritto, da quando se ne ha diritto, questo ve lo posso già dire da domani, andando in un negozio. Chi vorrà sostituire solo un singolo elettrodomestico, per lui è previsto uno sconto del 20%, con tetti ovviamente massimi differenziati per i diversi apparecchi. È previsto invece uno sconto del 10% fino a un massimo di 1.000 euro di incentivo per la sostituzione dei mobili della cucina con cucine componibili complete di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Ma ovviamente per tutto questo c'è un tetto massimo del fondo dato a disposizione dal governo. Secondo le associazioni di categoria, la reale efficacia degli incentivi sarà per le cucine componibili, potrebbe soddisfare un italiano su 2,5. Per gli elettrodomestici, uno ogni 20 acquirenti potenziali. Abbiamo in collegamento Pierluigi Bernasconi, vicepresidente di AIRES, Associazione Italiana Retail Elettrodomestici Specializzati. Buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, che cosa deve fare il consumatore in pratica da domani? Il consumatore deve presentarsi in punto vendita per ottenere appunto gli incentivi, dotato di documenti, quindi i soliti documenti, carta d'identità, codice fiscale e un attestato di avviamento alla discarica, quindi seguendo le normative AIRES dei vecchi elettrodomestici, perché ricordo che l'incentivo viene erogato solo a fronte della sostituzione di un elettrodomestico non a risparmio energetico precedentemente posseduto. Sono molti, quindi, infatti, gli ascoltatori che ci chiedono proprio questo: bisogna rottamare un proprio elettrodomestico? Sì, è così, però serve un'autocertificazione, così? Sì, ecco, sull'autocertificazione non abbiamo ancora la certezza, nel senso che, salvo adesso variazioni nell'ultima mezz'ora, stiamo ancora, e devo dire che c'è una grande collaborazione in questo, però stiamo ancora discutendo con gli organismi competenti del Ministero per capire se l'autocertificazione può essere sostitutiva di invece della certificazione che normalmente fa il demolitore. Bernasconi, invece per gli acquirenti, scusi, per i negozianti c'è una lista alla quale ci si deve registrare, mi pare di capire. Sì, i negozianti, peraltro non solo quelli degli elettrodomestici, ma quelli di tutti i settori che prevedono incentivi al pubblico, ai consumatori direttamente, devono registrarsi presso un apposito call center delle Poste Italiane, che è stato delegato dal Ministero, ricevere un numero che identifica il punto vendita. Quando il consumatore arriverà in punto vendita per ottenere il suo incentivo, chiamando questo numero, identificandosi come punto vendita e successivamente fornendo i dati del consumatore, sarà possibile ottenere un'autorizzazione, un numero di autorizzazione all'incentivo, e solo con questo numero sarà possibile erogare l'incentivo scalandolo direttamente sul prezzo, dal prezzo di acquisto del prodotto. Naturalmente i consumatori hanno diritto a un solo incentivo per ogni categoria di prodotto. Chiedo a Livio e a un altro ascoltatore, Florin, che sono in attesa di essere collegati con noi, di rimanere un attimo in attesa ancora, perché diamo il benvenuto a Maurizio Ricupati, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Federmobili, che è al Salone Internazionale del Mobile. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Grazie, lei può stare con noi qualche minuto, e volevo proprio chiederle, la presidente di Confindustria questa mattina ha chiesto che gli incentivi vengano estesi a tutto il settore del mobile. Per il momento si parla soltanto di cucine, e di un certo tipo di cucine. Quali? Esattamente. Innanzitutto noi siamo molto soddisfatti di questa iniziativa, nel senso che un lavoro di squadra fatto con il gruppo cucine di Confindustria, con alcuni produttori di elettrodomestici, ha fatto sì che per la prima volta ci sia un decreto che sia molto facile e utile per il consumatore, per cui alla base di tutto c'è l'immediatezza nell'ottenere il beneficio. Le caratteristiche delle cucine sono estremamente semplici: si deve parlare di una cucina che sia di tipo ecologico, quindi con una bassa emissione di formaldeide, che presenti almeno due elettrodomestici ad alta efficienza, e che poi venga effettuato uno smaltimento della precedente cucina, per cui non sul nuovo acquisto di una cucina come primo impianto, ma bensì sulla sostituzione. Dopodiché la procedura che ha accennato prima Bernasconi è esattamente quella più semplice, quindi il consumatore si rega presso uno dei nostri punti vendita e semplicemente richiede che gli venga applicato l'incentivo. Se la cucina rientra con queste caratteristiche è subito fatto, non ha bisogno di portarla in detrazione nel corso del tempo, non ha bisogno di fare il consumatore procedure complicate come avveniva negli anni passati, per cui questo è un passo in avanti molto importante. Grazie a Maurizio Ricupati per essere stato con noi, quindi, ma darei voce anche agli ascoltatori, in particolare Florin dalla provincia di Padova. Buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Volevo fare una domanda ai vostri esperti. Io ho acquistato una cucina con elettrodomestici tutti classe A più o tripla A a febbraio. Se posso usufruire anch'io degli incentivi? L'ha acquistata a febbraio scorso. De Stefani? No, purtroppo mi sembra di no. No, gli incentivi partono per gli acquisti effettuati da domani, quindi non è possibile. Purtroppo non è possibile. E comunque? Comunque, ecco, per quanto riguarda la sostituzione dei mobili per la cucina e quindi l'acquisto di nuove cucine componibili, ricordo che la rottamazione, diciamo, della vecchia cucina deve riguardare, la norma dice, solo i mobili per cucina in uso, quindi non è necessario, nel caso in cui uno mi compri una cucina componibile nuova, rottamare anche vecchi elettrodomestici. Quindi questo sembra, dalla lettura della norma, sembra che appunto la rottamazione debba riguardare solo i mobili della cucina in uso per comprare una cucina componibile. Livio dalla provincia di Pavia, buongiorno, benvenuto. Grazie, complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere semplicemente se i condizionatori sono compresi nel contributo. I condizionatori, in questo periodo immagino che molti italiani stiano pensandoci. De Stefani? Certo, non sono compresi nel contributo. Non sono elettrodomestici indicati nella normativa, e quindi niente, sono fuori. Chiedono anche gli ascoltatori al 349-238-6666 se i vecchi incentivi per i frigoriferi A più sono finiti. No, sono ancora in vigore fino a fine di quest'anno. È possibile sostituire un vecchio frigorifero con un frigorifero congelatore con una classe energetica non inferiore ad la A+, e il contribuente che ha una fattura, uno scontrino parlante riguardante l'acquisto appunto di questi nuovi elettrodomestici, frigoriferi in particolare, può avere uno sconto pari al 20%, uno sconto di imposta, quindi di IRPEF, parliamo in questo caso allora di detrazione di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta. Pierluigi Bernasconi, l'avevamo persa, siamo riusciti a ripristinare il collegamento, benissimo. Noi dicevamo che appunto i fondi sono limitati, bisogna affrettarsi, bisogna controllare che sia ancora possibile usufruirne, è così? Sì, è assolutamente così, ripetisco, nel momento in cui si il cliente, il consumatore... Come può fare il cliente a verificarlo? No, non lo deve fare il cliente, lo fa direttamente il negoziante, perché è lui che è accreditato presso il call center delle poste. Quello che deve fare il cliente è, come dire, rendere possibile l'identificazione, quindi avere la carta d'identità e il codice fiscale, perché, torno a ripetere, è possibile erogare un solo contributo per ogni tipologia di elettrodomestici. Ma il controllo della disponibilità dei fondi lo fa il commerciante, lo fa il negoziante. Abbiamo Fabio da Brescia in collegamento, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, Radio 24, buongiorno a tutti. Lei è un acquirente o un venditore? Io sono un venditore. Volevo sapere se questa proposta era possibile farla a tutte le famiglie o a alcune famiglie di reddito superiore o inferiore, se c'è una normativa riguardo al reddito delle famiglie, se si può proporre a tutte o a chi. Grazie Fabio, le chiedo anche dal punto di vista di un venditore, è chiaro, è tutto molto chiaro, lei ha consultato il sito del Ministero, è riuscito a capire a parte questa domanda che ci ha fatto? Sì. Noi abbiamo capito molto bene quello che il Ministero vuole intendere o vuol dire, però non è chiaro per l'acquirente cosa può fare o cosa non può fare. E da parte noi di venditori ci troviamo sempre col cliente che ci fa delle opposizioni dicendo no, non è così e non abbiamo materiale noi per poter promuovere questa o divulgare questa proposta dello Stato. Sono già venuti degli acquirenti a chiederle? Assolutamente sì. E lei con il numero verde è riuscito? Non siamo preparati, no, il numero verde l'ho saputo adesso nella trasmissione, sapevo che c'era un sito, ma l'ho saputo adesso nella trasmissione. Grazie Fabio. Giro la sua domanda a Luca De Stefani. Fabio quindi si chiedeva se l'offerta può essere fatta a qualsiasi fascia di clientela, fascia di reddito. Certo, non c'è nessun limite per quanto riguarda il reddito della persona fisica e ricordiamolo, anche imprese, professionisti, associazioni o enti non profit possono beneficiare dell'incentivo. Ecco, per quanto riguarda il controllo dei fondi, poi, è bene ricordare che, come giustamente si diceva, è vero che il controllo può essere effettuato solo esclusivamente dal venditore e non dal consumatore, però c'è un'altra questione da dire, che bisogna prima, per poter richiedere il contributo, il venditore deve prima aver venduto il bene. E quindi ci si trova nella situazione che il consumatore va nel negozio, acquista il bene, solo dopo aver comprato il bene può il venditore richiedere il contributo. Se quindi potrebbe accadere finiti, che i fondi siano finiti? Certo. E allora difatti si presume, l'abbiamo scritto domenica nelle pagine del Sole 24 Ore, si presume che sia possibile stipulare magari un contratto in forma scritta tra venditore e consumatore, dove la vendita viene effettuata in data odierna ad esempio, però condizionata con una condizione sospensiva in base all'articolo 1353 del Codice Civile, dove appunto questa condizione mi dice se il contributo non viene dato, guarda che la vendita sospende i suoi effetti. Beh, questo è un nodo da sciogliere abbastanza importante. Bentornati a Salvadanaio, stiamo parlando oggi di incentivi, gli incentivi che il governo offre ai consumatori che vogliono acquistare, oggi ci occupiamo precisamente degli elettrodomestici, delle cucine componibili, ma anche da domani per altri settori. Abbiamo in collegamento Piero dalla provincia di Teramo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, la mia domanda sarà molto breve. Il venditore proprio questa mattina mi chiedeva che è necessario che io fornisca un certificato attestante il conferimento a discarica della vecchia cucina, quindi sia dell'elettrodomestico ed anche della vecchia cucina, quindi della struttura diciamo in legno. Questa è la mia domanda e vi ringrazio se potete darmi una delucidazione. Pierluigi Bernasconi. Per quanto riguarda questo particolare, torno a ripetere che stiamo ancora cercando di capire in via definitiva se ci vuole un attestato o se sia sufficiente un'autocertificazione, perché questa è stata la nostra richiesta. In effetti è difficile pensare che qualcuno si liberi della cucina, ma anche degli elettrodomestici vecchi, prima di aver ricevuto quelli nuovi, sennò come farà questo poveretto a far da mangiare per 2 o 3 giorni? E su questo ancora non c'è chiarezza, Luca. No, De Stefani, siamo in collegamento, sì, in presa diretta con gli organi competenti, come dicevo prima. Volevo fare una precisazione, sì, se mi è consentito, rispetto a un altro fatto piuttosto importante, che è quello degli orari del call center. Il quale call senza delle Poste Italiane, è aperto dal lunedì al sabato dalle 8, funziona dalle 8 alle 20, ma la domenica no. Quindi naturalmente, siccome gli orari di apertura dei punti vendita non sono coincidenti e siccome ci sono molte domeniche di apertura nei centri commerciali, nelle varie regioni italiane, è bene pensare, lo dico per i consumatori, che alla domenica non è possibile avere la certezza del contributo, semplicemente perché l'esercente, il venditore, non può contattare il call center. Questa è una cosa di cui tener conto, così come non può farlo dopo le 8 di sera. Luca De Stefani, Bernasconi giustamente sottolineava il fatto che l'autocertificazione, soprattutto nel caso della cucina, è ovviamente più sensata che pretendere una dichiarazione di smaltimento della cucina. Certo. Diciamo che il decreto incentivi, il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo, dice testualmente che il contributo è corrisposto per operazioni di vendita in sostituzione di dei corrispondenti beni, e poi testualmente dice con documentazione, quindi sostituzione dei beni, con documentazione a carico del venditore sulla relativa dismissione, secondo le disposizioni vigenti. Quindi si presume che la documentazione, lo smaltimento, debba essere fatto a cura del venditore dei beni nuovi. Quindi questo è quello che dice la norma. Poi probabilmente anche a livello attuativo vi saranno dei chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo da seguire, da monitorare nel sito internet attualmente operativo. Diamo ancora il numero verde, quindi per chi vuole acquistare, 800 123 450, oppure questo da rete fissa oppure da rete mobile, 199 123 450, oppure per invece i negozianti 800 556 670. Questi sono i numeri verdi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere ragguagli. Piero dalla provincia di Teramo, lo abbiamo sentito. Matteo da Milano. Sì, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato, complimenti per la trasmissione. La mia domanda era, l'incentivo è valido, visto che non è uno sconto fatto immediato, ma poi viene messo in detrazione, quindi si recupera successivamente, lo sconto è valido solo per l'acquisto di una cucina per prima casa o è valido anche per un acquisto di una cucina in una seconda casa? Ma io, lei diceva lo sconto non è immediato, io credo sia proprio immediato, Luca De Stefani. Ecco, questi sconti sono degli sconti nuovi in vigore da, appunto, da domani, e non riguardano, non c'entrano nulla con le vecchie agevolazioni in vigore fino allo scorso anno e che davano la possibilità di detrarre per l'acquisto dei mobili il 20% di IRPEF. Questi nuovi sconti che partono appunto da domani sono dei contributi che lo Stato dà direttamente al venditore del bene, mobile, elettrodomestico, cucina, diciamo, componibile elettrodomestico, e il venditore se lo tiene e diminuisce il prezzo di vendita. Quindi il consumatore finale acquista già un bene ad un prezzo scontato. Ecco, quindi non c'è una detrazione fiscale da fare in dichiarazione diretta. Esattamente. Ci chiedono gli ascoltatori, che tra l'altro sottolineano il fatto che sia abbastanza complicato come meccanismo da capire. Mauro ce lo scrive al 349-238-6666. Speriamo di avere fatto almeno un po' di chiarezza. Ci chiede Giorgia, come si devono comportare i negozi online? Pierluigi Bernasconi. Ma qui è naturalmente è proprio necessario fare una vendita condizionata, perché noi abbiamo come venditori, insomma, tutti i venditori che operano online, rispetto alla vendita di dei prodotti coinvolti negli incentivi, hanno la necessità di verificare la documentazione del cliente, di verificare la disponibilità dei fondi. Quindi qui sarà necessario studiare dei meccanismi di vendita, di contratto di vendita condizionato, perché vale un po' più o meno la stessa problematica delle cucine. Nel caso delle cucine è ovvio che non sempre c'è la disponibilità immediata del mobile e quindi è necessario, come dire, fare un contratto condizionato. La stessa cosa penso che si dovrà approntare per le vendite online. Peraltro devo dire che sul mercato italiano le vendite online di grandi elettrodomestici non sono molto alte, nel senso che è una delle categorie di prodotti meno interessata dagli acquisti online. Eros da Treviso, le chiedo di essere rapidissimo. Sì, buongiorno. Allora, inizialmente, buongiorno a tutti, era uscita nei giornali l'ipotesi che lo sconto del 10% fosse sul prezzo di listino e non sul prezzo di vendita, cioè contrattualizzato. Perché tante volte lo sconto... Quindi su quale prezzo viene attuato l'incentivo, lei chiede. Sì, grazie, grazie. Poi, Eros. Secondo al volo, volevo chiedere, io ho già portato in discarica una cucina che era su una seconda casa, 2 mesi fa. A questo punto, che utilizzo solo nel periodo estivo, a questo punto perdo la possibilità, non potendo documentare il conferimento in discarica, o posso fare un'autocertificazione? Temo di sì. Luca De Stefani. Sì, per quanto riguarda la rotamazione deve essere comunque successiva, comunque e quindi perde la possibilità. Poi, quindi sicuramente. Per quanto riguarda il prezzo, nelle risposte frequenti indicate nel sito internet appunto del Ministero dello Sviluppo Economico è stato chiarito che per prezzo dell'immobile va considerato quello al netto di eventuali sconti praticati già dal venditore. Grazie, grazie ai nostri ospiti di oggi, Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, Pierluigi Bernasconi, vicepresidente AIRES. Noi, prima di concludere, vi ricordiamo che il 21, 22, 23 aprile 2010 a Milano si svolgerà il Salone della Gestione del Risparmio, un importante evento italiano interamente dedicato al settore del risparmio gestito. 3 giorni in cui i professionisti del settore incontreranno autorità, mondo accademico, istituzioni e media per confrontarsi sui temi dell'educazione finanziaria. In vista di questo appuntamento, anche Radio 24 continua il percorso per spiegarvi quali sono le parole del risparmio. La parola di oggi è prospetto informativo, nota informativa. Radio 24 e Assogestioni vi presentano le parole del risparmio. Il prospetto informativo è un documento estremamente importante. È infatti l'unico strumento a disposizione degli investitori per comprendere l'operazione finanziaria che si sta valutando. Il prospetto contiene le informazioni necessarie agli investitori per pervenire a un corretto giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente, nonché sui prodotti finanziari nei quali si è deciso di investire e sui relativi diritti. La nuova disciplina comunitaria contiene l'obbligo di accompagnare il prospetto con una nota di sintesi, che deve essere letta come un'introduzione al prospetto stesso. La nota, che deve essere redatta in linguaggio comprensibile e non tecnico, deve riportare brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari. Qualsiasi decisione di investimento, dunque, dovrebbe basarsi su un esame attento del prospetto completo. Le parole del risparmio. Grazie e saluto i nostri ospiti. Grazie in regia a Fabio Cantadori, Gaia Romani e Alessandro Longoni, che hanno contribuito a realizzare Salvadanaio e Soldi e dintorni. Grazie a voi per l'ascolto. A domani, ciao.